Avventurieri, avete superato la fessura. Dall'altra parte la via prosegue, sicura e diretta. L'eremita vi ha indicato la strada giusta. Avete fatto bene a fidarvi.